Prijatelj predaš, prijatelj predaš. Donne sghila, scolopina, tutte chiline, bandacce, spadiglia, Dambinaino, gli attanti, guerriglia, Grassina, Rifredi, in centro macello e bottiglie, tutta la mia è la Firenze di bar, Milardino in un centino, fuoco connetta con dance, un bambino gioca a fare gilardino, australiano ed argentino, pare che giri il mondo, invece che giro a tondo, intorno a cinque quartieri, ma Firenze è cambiata e non è quella di ieri, attorno ormai pregiudicati e cari, che pagano errori ormai dimenticati, scendo un po' ma GDP, CTG, si sa tutto al giro qui, fra uno speed, faccio beats, la Wall Street, degli homeboys di quartieri, aprendo gli arresti e le cronache serie, che succede ai ragazzi che vedevo alle medie, le perquise e gli infami, la gente sui cazzi, altro che paparazzi, androni e palazzi, la giustizia e i suoi dazi, pizzette e statè che soppiazzano i pranzi, a Pecena in Giorgini, due negroni, punk e due cannoni, colla tra i miei omi, giri di amari con i miei compari, il trucco chinato che si gioca nei dadi, in panda sui viali, punta al cianamari, c'è rispetto animali, ma che sopra le scale, alle 3 dentro al fem, alle 5 vollate, la creme della creme, no, pranzi e carcasse, le Firenze Street, la sua gente, Silvio, presente qui, Southside, HC, alcol, bordello, sobbuglio, urbano, facce da piazza all'australiano, Grassina, bravo, Rifredi, bravo, Sorgan e stadio minime, bravo, Rumba in villa, panne e risla, donne e sghila, scolopira, se, vieni con me in quartiere, al bar sotto casa c'è di Jäger, verso le 3, poi la predotta in Tanucci, tra Muratore e Marucci, Mosè, Verde e Pentucci, Harry C, sopra tutti i muri di qua, scale da marmuri di là, davanti al bar e alla casa del popolo e lì si raccatterà, c'è il solito libero e libero me lo fa, dalla vecchia pescicchi sclausi, premio per silicio, lercio d'applausi, la pizzetta tra le fauci, a re della foresta, sul tuo resto c'è la cresta, ragazzini, potigli sui motorini, facca bestia e cani sciolti in Giorgini, se, tutte le sere così, tra CDP e farmacia, alcolizzarsi fissa con la trilogia, e poi in centro per noi è terra di nessuno, due maiale, gioca la best sicuro, in Santa Cruz, bevo col crew, gin and juice, fino a che non si beccano luci blu, a casa chiamo i runner, pizza, pane, risla, donne, schilla, scolo, villa, tutte chiline, bandacce, spadiglia, da un vinaino, le chianti, guerriglia, Grassina, Rifredi, Novoli, stadio e Sorgane, Salotto, Minime, in centro macello e bottiglie in mano. Ah, tu lo so già, qua parola vera. Mio quartiere, Sorgane, Firenze, Southside, Grassina, sai, niente neri con i Cadillac, ma di guai, tu lo sai, tu ne trovi assai, Southside, Southside, tiro avanti e ormai tiro a campa, con mie fra, più ne metta chi ne ha, chi aspetta nelle piazze, chi aspetta al bar, chi di chance non ne ha, che lo Stato non le dà, coiuterà, vecchie bandacce, con fra seratacce, io sulla strada e i miei cugini giù a faccacce, in zona brutte facce, che hai fatti e salta le minacce, chi nasce bastante, chi sta buono al primo schiaffo, al tavolo, a bere il vecchio baffo, lo spaccio per capirsi da uno sguardo, non c'è parco ma panchine, la botta fa lo scaldo e le schiene sono chine, scrivi sopra i muri e ti scrivi sopra fogli la sua fine, prime storie, mi ricordi la mia casa e i miei rimorsi, nella zona chi fa soldi non ha discorsi, lo stomaco da morsi, Sorgane, Grassina, Rifredi e Ponte di Mezzo, Ruba in villa, panne e rizla, donne e sgrilla, scolo birra, giù techelino e bandaccia e squadriglia, Dambi Naino, gli attanti, guerriglia, Solotto, bravo, Minime, bravo, un centro macello, subuglio urbano. No, ma qualcuno di arte, poi non sono di mio nome, un po' di gara per tua parte, è vero, bisogna dire che è andato già a parte.